ottimo inizio quello di quest'oggi insieme ai Kiss con la loro Detroit Rock City, le 12:03. Come al solito ringraziamo Marco Caravelli per essere stato qui con noi ancora una volta dalle 9 a mezzogiorno. Adesso invece vi beccate ancora per l'ultima giornata. Attenzione, che detta così è veramente bruttissima. Però oggi è venerdì, si chiude la penultima settimana di Rock FM, una settimana relativamente normale. Poi, come ben sapete, la prossima sarà l'ultima, però sarà anche piena di ospiti, quindi non sappiamo esattamente cosa succederà all'interno del palinsesto, nel senso non so dirvi se io farò mezzogiorno 14 o se ogni tanto magari andrò la sera o con Edo o con Max o con Marco, non lo sappiamo. Quindi oggi è l'ultima giornata normale qui in radio. E poi giornata normale veramente sto esagerando. Allora, i nostri contatti 335 100 7777, claudia@rockfamily.it. A proposito, ancora una volta un salutone alla community online sul nostro fantastico sito www.rockfamily.it. In arrivo Rage Against the Machine, in arrivo in tutti i sensi. Ho letto così proprio grazie ad un ragazzo della nostra grande famiglia, leggevo la scaletta del tour europeo. Vi dico solo, sti cazzi. Ecco, perché rende, questo mio commento rende. Non vedo l'ora di vederli in concerto. Assolutamente sì. Li abbiamo già in sottofondo. Questo è un classico anche per loro. Rage Against the Machine, questa è Killing in the Name. That work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces draw the same that burn crosses. You do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Parlava di una reunion dei Rage Against the Machine, si parlava solamente di un paio di concerti, però insomma una cosa molto tranquilla, forse uno, forse due, forse tre, punto. Ovviamente il tutto in America, e noi abbiamo sempre sperato in un tour europeo, abbiamo sempre sperato in un loro ritorno in Italia, e la cosa succederà nel mese di giugno, ma un po' lo sapevamo, perché dai, che fai, la reunion per un concerto solo? No, cioè la fai al limite per un concerto a Los Angeles e per uno a Milano. Poi il resto chi se ne frega, però insomma mi sembrano due città fondamentali per il rock, e quindi appunto arriveranno nel mese di giugno. Sta circolando una scaletta che dovrebbe essere quella ufficiale del tour, almeno forse di un concerto, non so se sia quella del tour europeo, però ripeto, stica, cioè non si può star fermi, ve lo dico subito. Quindi se avete qualche acciacco, dovete prepararvi in qualche modo al concerto dei Rage Against the Machine, perché sarà qualcosa di eccezionale. Abbandoniamo i Rage Against the Machine, in arrivo c'è il nuovo singolo dei Supergrass che riascoltiamo con Bad Blood. I'm losing sleep, so I walk these dirty streets. I heal bad blood, run through this neighborhood. I don't get it, bed ain't filled with romance. This life ain't living. It's screaming in my face. All right, on my knees. Yeah, not too late. I don't believe that Mary's got them guys. Not that long. Yeah, Satan's dreaming. Oh, on the side. degli Avengers 7 da ormai tipo un anno. Questa era Almost Easy. Diamo un'occhiata ai messaggi arrivati al 335 100 7777, claudia@rockfamily.it. Allora, saluto Sarvatio da Pisa, dice: ho sentito dire che ad agosto uscirà il nuovo album degli Slipknot ed hanno annunciato che il mondo non è pronto per un album come quello, ma non conoscono il popolo di... aiuto, ma non conoscono il popolo di Rock FM, noi siamo pronti a tutto, anche a continuare ad urlare contro chi vuole tapparci la bocca. Bravo, bravo, sì, in effetti Corey Taylor ha rilasciato questa dichiarazione. Tra l'altro, a proposito di Slipknot e compagnia bella, avevo anche una news da dare quest'oggi, ma in questo momento ovviamente non la trovo. Un classico. Allora, Slipknot, Machine Head e Children of Bodom probabilmente in tour in Europa insieme. Tutto questo nel periodo autunnale. E anche in questo caso direi sti cazzi. Cioè Slipknot, Rage Against the Machine, sì, Slipknot, Machine Head e Children of Bodom. Chi potrebbero essere gli headliner? Ma secondo me l'ordine potrebbe essere Children of Bodom, Machine Head e Slipknot. A parte che sono tre band grosse comunque. Casino, potrebbero fare una serata a testa per non litigare. Saluto Fede da Ravenna. Allora, il titolo della canzone era Killing in the Name dei Rage Against the Machine. Saluto anche l'M64, dice: ma quanto mi mancherà sta ragazza. Anche voi ci mancherete veramente un sacco, per quello che insistiamo sul sito, insistiamo per farvi conoscere rockfamily.it, perché dopo il 31, mannaggia, sarà l'unico modo per rimanere in contatto. rockfamily.it. Oh, ma saluto. Ma durante l'ultima 24 ore di venerdì 30 sarete in strada con il DJ set presso via Locatelli. Ma questo in mezzo, il DJ set in mezzo alla strada non lo so ancora, però noi saremo in diretta dalle 18 del 30 maggio al ovviamente alle 18 del 31 e noi saremo lì qua, cioè più che altro. Saluto anche Luigi da Genova, dice: quando credi in qualcosa niente può farti cadere, sono sicuro che presto sentiremo parlare di nuovo di voi. Spero. Grazie per la rabbia e per l'energia che ci date. Prego. Guarda, in questo periodo rabbia tanta, automaticamente anche tanta energia. Vabbè, chissà, ovviamente, ripeto ancora una volta, il sito serve anche per poi aggiornare voi e tutti su quello che succederà poi nei prossimi mesi, per ad esempio le iniziative, le serate, tutto quello che è legato al mondo della Rock Family. Intanto continuiamo con i Foo Fighters, ce li riascoltiamo con Long Road to Ruin. We'll be right back.

Arriveranno anche loro nel mese di giugno, il 7, e saranno all'Alcatraz di Milano, concerto ovviamente molto atteso. E stiamo parlando dei Queensryche, riascoltati quest'oggi con la bellissima versione unplugged di questa canzone meravigliosa, ovvero Silent Lucidity. Ora c'è una piccola pausa. Ecco, appena detto piccola pausa, scattato l'applauso. Pubblicità, tra poco gli Strokes.